Italia in controluce. Il 14 di luglio la seconda edizione di Italia in controluce, vi parla Daniele Biacchessi. La prima parte è dedicata ad una storia molto particolare, quella dei preti sposati, Roberto Bonaldi. Da padri spirituali dei parrocchiani a padri di famiglia. È il caso dei preti che si tolgono l'abito talare per amore. Succede in tutto il mondo. In Italia, negli ultimi anni, il Veneto ha registrato vari casi di questo genere. Il più recente, in questi giorni, riguarda un parroco che, dopo 11 anni, ha lasciato la comunità in provincia di Padova per un periodo di riflessione. Si è infatti innamorato di una giovane parrocchiana. A fare una stima del numero di sacerdoti che lasciano l'incarico pastorale ci ha provato Federico Bollettin. Padovano conosce bene la questione. Fino a qualche anno fa era prete, poi si è dimesso e adesso è sposato con figli. Io ho cercato di fare una stima nella mia diocesi, la diocesi di Padova, e in un articolo ho espresso questa stima che si riferisce a un abbandono che riguarda un prete su 4. E questa stima, leggendo e informandomi anche a livello nazionale e mondiale, riguarda un po' sia tutta l'Italia che il mondo. In Veneto il legame con la fede è sentito, ma non per questo impedisce ai preti di riflettere sul rapporto tra sacerdozio e celibato. Secondo me la formazione dal punto di vista intellettuale, culturale, nel Veneto è molto buona nei seminari e quindi vengono ordinati preti con grandi capacità dal punto di vista umano, intellettuale, spirituale. E quindi questo fattore qui porta anche ai preti, a queste persone, di capire molto più in fretta anche alcune assurdità di alcune leggi della Chiesa. È un modo di dire: io che devo predicare l'amore, mi accorgo che posso vivere questo amore amando concretamente una persona. Quindi non si trova questa discrepanza tra esercitare un ministero, il ruolo del prete, e amare una persona. Storie di preti che lasciano spontaneamente l'incarico, ma c'è anche chi lo fa per un provvedimento ricevuto dai vescovi o dal Vaticano. Comunque, cominciare una nuova vita non è semplice. Non è facile, perché ti trovi davanti soprattutto al giudizio della gente, che è la cosa peggiore, e quindi devi cercare di costruirti una vita, di cancellare quel senso di colpa che ti viene messo addosso. A Padova i preti non sposati si incontrano 3-4 volte all'anno. Federico Bollettin ha tentato di organizzare un incontro anche con il vescovo, finora però niente di fatto. Intanto, mentre Papa Benedetto XVI ribadisce che è un valore sacro il celibato dei sacerdoti, tra questi non mancano le proposte di revisione. Se posso anche interpretare il pensiero di molti altri, è quello di non metterlo come obbligatorio, cioè di rendere il celibato una opzione facoltativa. Dello stesso parere anche Mauro Castagnaro, giornalista e curatore di una raccolta di studi sull'argomento. Da una parte c'è la tendenza a collegare sempre più rigidamente il celibato all'essenza del ministero ordinato. Dall'altra però mi sembra che le esigenze di inculturazione e il superamento di quello che può essere un retaggio appunto di una concezione comunque pessimistica o negativa della sessualità possano portare ad un superamento. Nella storia, ma anche nella Chiesa dei nostri giorni, le alternative al celibato non mancano. Se guardiamo alle radici bibliche, storiche, vediamo che molti apostoli erano sicuramente sposati. Lo era Pietro, certamente. Molti papi sono stati sposati e la introduzione dell'obbligo del celibato come lo conosciamo oggi risale al Concilio Lateranense IV del 1215. Ci sono in piena comunione con Roma circa 20 milioni di cattolici romani, appunto, che fanno parte delle chiese cattoliche di rito orientale. In queste chiese che colui che deve ordinarsi prete, prima di ordinarsi prete può sposarsi e quindi mantenere una vita matrimoniale normale. Per vedere il celibato facoltativo ci vorrà tempo. Intanto, per chi ha iniziato una nuova vita dopo il sacerdozio, Federico Bollettin precisa: io non chiamerei ex sacerdote, ma lo chiamerei semplicemente prete sposato, perché non è bello vivere sempre con quell'ex davanti, perché io non ho lasciato qualcosa, ma ho arricchito il mio essere prete attraverso una relazione d'amore importante e significativa. La seconda parte di Italia in controluce è invece un racconto sui pentiti di mafia, Monica Ceravolo. La signora arriva negli uffici di polizia indossando un tailleur di marca e un trucco, appena un po' eccessivo. Mani lisce, curatissime, alle dita porta pianelli di quanti ne abbia la statua di Santa Rosalia. Entra nella stanza in cui si trova il marito, arrestato poche ore prima. L'uomo, alludendo alla possibilità di collaborare con la giustizia, le spiega: così, tra qualche anno esco. E lei lo aggredisce: e che esci a fare? Sarei sempre un infame. Se parli, mi metto a girare tutta Palermo e dico che non ti conosco. I momenti dopo l'arresto, soprattutto l'incontro con i familiari, mogli in testa, sono decisivi quando un mafioso è tentato dall'idea di pentirsi. Alfonso Sabella, magistrato che per anni è stato alla DDA di Palermo, quell'episodio lo ricorda bene e lo racconta anche nel suo libro Cacciatore di mafiosi. Quando la moglie arriva nell'ufficio di polizia è uno spettacolo, mezzo chilo d'oro al collo, unghie laccate, con l'autista che lo attendeva, entra nella stanza dove c'è il marito e lo aggredisce a male parole, ma anche con termini piuttosto volgari, insultandolo praticamente, dicendogli che è un pazzo, che è uno scriteriato, che non ha alcun senso dell'onore, del rispetto, della dignità e che non può pensare di portare tutta la famiglia, moglie, figli in qualche città del nord in mezzo alla nebbia a campare con 1 milione di lire al mese mentre lei fa la signora a Palermo. Ovviamente il tipo un quarto d'ora dopo aveva già cambiato idea, ha deciso di non collaborare più. Il tipo è Gaspare Spatuzza e da quel momento si cuce la bocca, si pente di aver accarezzato l'idea di collaborare per poter uscire di galera. Resterà zitto per 11 anni. Sono dichiarazioni molto importanti, soprattutto in quel periodo storico sarebbero state veramente importanti poterle avere per quella che era la sua conoscenza. Nessuno dei familiari potrebbe mai dare l'ok al loro congiunto di collaborare. Soprattutto quando appunto si tratta di persone che sono che hanno raggiunto l'apice della scala sociale secondo quella subcultura di Cosa Nostra. Spatuzza poi ha iniziato a collaborare con la giustizia, ma solo nel 2008, e oggi è uno degli uomini chiave dell'inchiesta sulle stragi del 92 e del 93, ma non è il primo a avere fatto marcia indietro dopo aver incontrato la moglie. L'ultimo in ordine di tempo è Fabio Tranchina, ex autista del boss Giuseppe Graviano. Il suo primo tentativo di collaborare dura una sola sera. È lo scorso sabato 16 aprile che si trova davanti ai magistrati di Firenze che indagano sulle bombe del 93 e parla dei suoi rapporti con i Graviano e dei rapporti di questi con la politica, delle stragi di Falcone e Borsellino e degli attentati di Roma, Milano e Firenze. L'interrogatorio si chiude che non è mezzanotte. L'indomani, il 17 aprile, quando rincontra i magistrati, non dice più una parola, spiega di aver avuto un ripensamento. Cos'è accaduto quella notte? Tranchina ha incontrato sua moglie, che è partita da Palermo alla volta di Firenze per riportarlo indietro. I due prendono un aereo per tornare a casa, ma atterrato a Punta Raisi, Tranchina viene arrestato su ordine della DDA di Palermo. Lontano dalla moglie ci ripensa. Roberta Buzzolani è uno dei magistrati che sta raccogliendo le sue dichiarazioni. Caso del Tranchina, la moglie è sorella di un importante esponente dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, un soggetto già condannato per 416 bis, quindi la moglie non lo ha seguito in questa sua scelta e nel suo percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria, perché è molto difficile che le donne recidano a loro volta il vincolo familiare di sangue, quindi quello coi genitori piuttosto che con i fratelli. Eh sì, perché le mogli di mafiosi spesso, prima di essere spose di uomini d'onore, sono figlie di boss. L'aria di Cosa Nostra la respirano da sempre, da quando sono nate. Non è facile per loro rinnegare i principi con i quali sono cresciute. Così prendono le distanze dai mariti traditori. Quando è uscito il nome di Pasquale Di Filippo come l'uomo che si era pentito e che aveva fatto arrestare Luca Bagarella, la prima cosa che hanno fatto moglie, cognati, figli e quant'altro, si sono dissociate e l'hanno rinnegato. Anche perché soprattutto la moglie è la madre dei tuoi figli. In quel caso era anche il tuo contatto con Cosa Nostra, perché Pasquale Di Filippo entra in Cosa Nostra sostanzialmente perché ha sposato la figlia di Masino Sparare. Può accadere anche il contrario. Quando si ha una moglie con vincoli di parentela mafiosi, per alcuni è meglio avere a che fare con i magistrati che con la famiglia di lei. Sono i casi in cui più della coscienza può la paura. Avevamo individuato un uomo d'onore, tendo anche delle microspie sotto il letto della stanza dell'amante, e lui all'amante faceva un sacco di confidenze. Quando lo arrestiamo, io la prima cosa che faccio, gli faccio leggere quelle intercettazioni, quelle trascrizioni. Lui non ha un problema rispetto allo Stato, quanto un problema rispetto a Cosa Nostra, perché dovrà giustificare agli altri uomini d'onore perché ha fatto queste confidenze a una donna che peraltro non era nemmeno sua moglie. Un quarto d'ora dopo eravamo a scrivere il verbale della dichiarazione di intenti, insomma, aveva deciso di collaborare perché sapeva che sarebbe stato un uomo morto. E poi ci sono i pentiti per amore. ultimi anni abbiamo anche registrato una serie di casi in cui dei soggetti arrestati anch'essi per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso hanno deciso di collaborare con la giustizia e quindi di fare questo passo, il salto del fosso, in quanto intrattenevano delle relazioni extraconiugali, quindi con delle altre donne, erano molto innamorati di queste donne e diciamo che l'opportunità di entrare nel programma di protezione, recidere i precedenti rapporti familiari e anche i rapporti con l'associazione a delinquere ovviamente, hanno consentito a questi uomini di coronare il loro sogno, diciamo così, di poter poi andare a vivere con le nuove compagne. Perché una cosa è certa, dalla mafia una volta che entri a fare parte dell'organizzazione non si esce, non vivi. Dalla mafia non si esce se non con la collaborazione con la giustizia, come dicono loro, con la morte. Non esiste una terza via di uscita. Seconda edizione di Italia in Controluce, torniamo domani 6:30 a Radio 24.